Pane, burro e rock and roll. Già decolata da 30 minuti l'astronave del rock and roll. La nostra missione, amici ed amiche, si chiama Davide contro Golia. Non ditelo a nessuno. L'FBI è già sulle nostre tracce. Il vostro compito in questa missione è spargere la voce. Ogni giorno al mattino si ascolta Rock FM. Dalle 7 alle 9 c'è Pane, Burro e Rock and Roll. È imperdibile. C'è quel vecchio rincoglionito di Roberto Fricantoni e quel giovane andato a male dell'Ariele. Tra l'altro mi do del giovane, dell'Ariele. Di Spadino non vi dico nulla, tanto non lo vedete e non sapete neanche chi è. Un benvenuto a un nuovo gruppo d'ascolto. Si chiama Gian 75 da Genova. Lavascale scazzato! Ma sì, pensa che bello, Frick ci sta ascoltando da una tromba della scala. Immaginati te che eco che ci deve essere. Alza manetta, Gian. Fai sentire a tutto il condominio Steve Miller Band. Rock and Me. Saranno contenti di svegliarsi sapendo che chi si cura delle loro scale gli fa anche ascoltare della buona musica, no? Ricordarvi che tante sono state le cartoline ricevute negli studi di Rock FM ed inutile ricordarvi quanto tutti quanti andremo a salutarvi uno per uno, come è giusto che sia. Voi ci avete spedito una cartolina, noi vi ringraziamo. Sì, ci sembra più che giusto, più che onesto. Ricordate di insistere, ricordatevi di non dimenticarvi di spedire una cartolina postale, salvando così la cartolina stessa da un destino infausto. E ringraziamo al volo un amico, Filippo, che ci spedite una cartolina da Marina di Carrara, con una di quelle cartoline che mettiamo nel cestino classico, nel senso che ci sono più vedute di Marina della meravigliosa Marina di Carrara, un po' sul mare, un po' sulla piscina, un po' sulla boschiglia, un po' sulla pineta. Un po' sulla pineta e un po' sulla classica barca a vela. E da Marina di Carrara ci scrivono: erano almeno 10 anni che non compravamo una cartolina, merito vostro ragazzi. Questo è quello che ci inorgoglisce, caro Fritz. Sì, sì, questo ci fa capire che siete recettivi, avete recepito il messaggio. Con voi la sveglia alle 7 ormai è un piacere, sentite qui che orgoglio. Mia figlia Vittoria di 4 anni mi dice sempre: facciamo un gioco, tu sei rock e io sono FM, tornate presto a settembre Filippo. Tracu, che tracu bello. Forever. Cara, cara piccola Vittoria, io faccio FM e tu fai rock. Sì, oppure Filippo. Io faccio Frick e lui fa Antoni. Bello, oppure io faccio Vittoria e tu fai Filippo. Anche. Tracu, tracu forever. Saluti da Marina di Carrara qui a Milano, Rock FM, via Locatelli 1, 20124 Milano. E da Massa Carrara saltiamo a una cartolina che la nostra redazione ha voluto inserire nel reparto Vintage Catholic. Sì, Catholic Chiese. Chiese, questo è un Catholic Church. Catholic Church, esatto, un classico campanile, ci arriva da Belluno, questa è la facciata e campanile della Basilica Cattedrale di Belluno. Di Filippo Giuvara del XVIII secolo, per essere filologici. Certo, 1700. La vedo sconfortata, sì. Ce la scrive Diego interessato. E presumo Elena, esatto, e commentano: lo sappiamo, non è un granché, però ce l'ha regalata il sacrestano che abbiamo incontrato in osteria. Era per aderire alla campagna di Frick e Ariele. Comunque, con mia mamma in circolazione, la cartolina postale non può sparire. Me ne manda una o due al mese e dille di mandarle a noi allora. E dille che la ringraziamo. Un applauso alla mamma di Diego. Oltre a ringraziare mamma Diego e Elena, io ringrazierei allora anche il sacrestano incontrato in osteria, che mi immagino in che situazioni poteva essere per regalare cartoline della sua basilica così ai primi avventori. È stato bello condividere con voi questa cosa. Grazie Diego, grazie Elena, ma soprattutto grazie alla cartolina postale e grazie al sacrestano per il suo bel gesto. Continuate a scriverci e a salvare la cartolina postale dallo strapotere dell'SMS e del computer. Salviamo la cartolina postale. tanti, molti, sempre di più all'ascolto di Rock FM al mattino. Benvenuti alla colazione servita. Si chiama Pane, Burro, Rock and Roll. I Deep Purple di Mandrake Root, che potrebbe grossolanamente essere tradotto il rutto di Mandrake? No, no, molto probabilmente no. Tanti nuovi gruppi d'ascolto che si censiscono, che si autocensiscono al nostro 335-100-7777, ma io vorrei aggiungere una piccola appendice all'intervento sulle cartoline postali, campagna che abbiamo lanciato prima della pausa estiva, e campagna che ci si sta ritorcendo contro. Avete in mente quando si hanno delle idee geniali che poi dopo però si ritorcono, non so, è un po' come quando ti fai una bella sigaretta con dentro le robe dei giovani e poi dopo decidi di regolarti i baffi. Non è una grande idea, almeno per me non lo è mai, va sempre a finire male. No, sono un pezzettino, tanto. E sicuramente uno... Allora, succede questo, lanciato l'appello, salviamo la cartolina. A, ne stanno arrivando veramente troppe, quindi non sappiamo B, dove metterle, C, come fare veramente a salutarvi tutti, nel senso che andremo avanti fino all'estate prossima, cioè quando dovremo lanciare, sempre se ci saremo fino all'estate prossima, quando dovremo lanciare la nuova campagna, già avremo quelle vecchie ancora da smaltire. Secondo grosso problema, che non avevamo assolutamente calcolato, era il grosso problema della vostra firma, che nell'80% dei casi è illeggibile. Questo implica il fatto che quando quotidianamente vi salutiamo, quotidianamente il giorno dopo mi scrivete dicendo: no, guarda che hai salutato degli altri, ma ero io. Quest'oggi rettifico per quanto riguarda Donatella da Milano, che mi segnala giustamente via mail una cartolina letta qualche giorno fa, che chi si è fermato era Dario e non Davide o Daria, come abbiamo detto noi, perché è il suo ragazzo. Va bene, comunque sembra in ogni caso contenta Donatella di aver aderito alla nostra campagna e soprattutto di aver sentito i saluti in onda. E signore e signori, ho invece il colpaccio per quanto riguarda la cartolina postale, ringraziando il fedelissimo radioascoltatore Gianfranco, che spesso e volentieri salutiamo perché è sicuramente l'unico radioascoltatore napoletano che ci scrive. Quindi Gianfranco, prima di tutto spargi la voce anche tu, perché anche tu fai parte del piano d'assalto Davide contro Golia, quindi anche tu spargi la voce a Napoli, come ascolti tu Rock FM, falla ascoltare anche ad altri. Sicuramente muove i primi passi per quanto riguarda la campagna per la cartolina postale. Mi scrive questo: ieri ho convinto l'amico conduttore di Radio Marte Stereo, si chiama Fabio Brescia, ad aderire alla campagna di sensibilizzazione Salviamo la cartolina postale. Quindi Rock FM e Radio Marte Stereo di Napoli aderiscono alla campagna Salviamo la cartolina postale, in questo gemellaggio Madonnina Napole e Purtale Scarp del Tennis e Simu Napole Paisà, c'è questo gemellaggio con la cartolina postale. Grande Gianfranco, è così che vogliamo i nostri radioascoltatori. Lunga vita a Radio Marte Stereo. E voglio essere ricambiato, ragazzi, di Marte Stereo, eh? Voglio i saluti da voi. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, tambourine man play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Everybody! Mr. Tambourine Man, Mr. Bob Dylan, che attende ancora delle ripetizioni di armonica dal nostro Way Fabione Treves. Però che l'armonica di Mr. Tambourine Man è essenziale, come si suol dire, eh? Sì, potresti farla anche tu, Mr. Trump. Senza offesa a Bob Dylan, eh? Nulla contro Dylan, nemmeno contro la sua armonica, che è essenziale. Nient'altro, solo detto questo. Allora, volevo leggere i gruppi d'ascolto, ma sono un po' in ritardo. Qua stiamo cronometrando al secondo l'arrivo alle 8 spaccate, momento nel quale sveglieremo i nuovi radioascoltatori anche quest'oggi con un brano dei Rolling Stone. Però ne approfitto per salutare un'altra amica via mail che si lamenta, e non è l'unica, ma è una cosa che ci fa molto piacere. La lamentela che ci segnalate è che per ascoltare Pane, Burro, Rock and Roll, entrate in ritardo al lavoro e quindi avete bisogno di scuse. Allora, di scuse ne abbiamo in abbondanza, perché abbiamo Freak che veramente scoppia di scuse per il ritardo. Permettetemi di ricordarvi che non c'è bisogno di arrivare in ritardo in ufficio da quando abbiamo il programma in archivio su RadioRockFM.com. Quindi qualsiasi pezzo della puntata che vi perdete, qualche minuto dopo il termine della diretta, lo ritrovate su RadioRockFM.com. È lì bello caricato sul nostro sito, con calma, poi anche alle 6 del pomeriggio, quando avete finito di lavorare, vi risentite il pezzo che vi siete persi, ok? RadioRockFM.com. Mentre per te, cara amica, che anche quest'oggi rischi di arrivare in ritardo per colpa nostra, fresca fresca la scusa di oggi. Servizio a favore del radioascoltatore. Fatto per te. Il ritardatario ritardato. Chi è? Non frapponete alcuna remora morale tra il problema e la sua soluzione. La scusa di oggi, interpreta il maestro di giustificazioni Roberto Fricantoni. Lo so, direttore, lo capisco dalla sua occhiata di rimprovero, giusta peraltro, giustissima. Non ho scuse per questo ritardo, ma sapesse il dolore per la perdita di questo animale straordinario, un compagno silenzioso ma prezioso. Anche lei ama gli animali, io lo so, in fondo lei è una persona sensibile, si vede. No, non lo dico per sviolinarla, per carità, ci mancherebbe altro, ecco, ma so che lei può capire il mio dolore. Questo gatto immobile, questo gatto così rigido, così freddo, insomma è stato uno strazio per tutta la famiglia, si figuri i bambini, tutti a piangere. Non ho potuto scendere in garage, avviare la macchina e partire per l'ufficio finché non mi sono accertato che il gatto poi, in fondo, non era morto, stava solo dormendo. Il ritardatario ritardato. Non dimenticate, una buona scusa è quello che ci vuole per qualsiasi ritardo doloso. È un servizio a favore del radioascoltatore, offerto da Rock FM. Comunque, direttore, le assicuro che non accadrà mai più, anche perché adesso, vede, se il gatto finge di dormire, io me ne accorgo. Sono diventato più furbo di lui. Yeah.